Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui. Barça, Barça, Barça. Barça, ragazzi, che emozioni. La remontadona del Barça. Che vincano la Champions League. Caro mio, dai, su, non fare l'ente italiano, su. Non fare l'ente. Perché anti italiano? C'è una squadra parente di una squadra italiana, devi sapere, in Coppa dei Campioni, dovresti saperlo. Viva il Barcellona! Ecco, vabbè, appunto. No, detto questo, sì, grande emozione ieri sera, ma detto questo, lo sai come finirà. L'inno del Barcellona. Vabbè, adesso ci accusano di essere sicuramente non bianconeri, vedi? Accusa è? È un onore, addirittura una medaglia. Vabbè, si sfida oramai tutto. Però ragazzi, quando si fanno 3 gol in 8 minuti, ma ti rende conto? Io quello me lo ricordo. Lo so, va bene, ma infatti sono le cose che non ti puoi scordare. Infatti, no, il precedente non te le scordi, no? Per sempre precedente... Che li fai o che li subisci? Il precedente turco, per così dire. Esatto. Però sono le cose che rimangono scolpite nella storia, sì, delle, sì, imprese. Esatto. Bene, bene. E meno male che dicevano che era finito il ciclo del Barcellona. Meno male. Vabbè. Allora, cosa vogliamo? Inviamo questo tono trionfale, dai. Lettera di cordoglio. Allora, oggi tutti ricordano il santo principale, Santa Francesca Romana, che effettivamente è una santa di riferimento per la copatrona di Roma, è una storia di famiglia nobile, sposata per forza dal padre a 12 anni con un nobile, ma poi la vocazione, la religiosità, il trasporto per i poveri, eccetera, eccetera, la rende una santa iconica delle virtù femminili, e quindi d'accordo. Però io ti volevo proporre invece un santo che io sono sicuro che ti è caro, perché è un santo giovanissimo che insieme a San Giovanni Bosco è il pilastro del movimento salesiano, perché è San Domenico Savio, cioè l'allievo di Don Bosco, ragazzino che muore a 15 anni perché assiste i malati e poi gli viene la tubercolosi, ed è anche quello che scrisse da piccolino il bigliettino a quello che poi diventerà santo, appunto Giovanni Bosco. Dice: mi aiuti a farmi santo? E Don Bosco gli risponde con i 3 principi che sono poi i fondamenti del movimento oratoriale salesiano, cioè: per diventare santo, primo, allegria, che già è una roba diversa da avere il musone, eccetera. Secondo, impegno sui doveri e sullo studio, impegno sui doveri. E terzo, fare del bene. Una volta, le 3 cose. Una volta l'ho già raccontato, ma sai che ho fatto parte per un breve periodo degli Amici di San Domenico Savio. Credo, e andavamo in trasferta al grido di San Domenico Savio, ecco. San Domenico Savio. Oh. Pensa alla bellezza della vita che ci unisce come conduttori, mentre io cantavo: bruceremo le chiese, gli altari, bruceremo le ville, le regge. Pensa che bello. San Domenico Savio. Eravamo in un film su Peppone, eccetera, senza saperlo. Esatto. Questo. Vabbè. Scusate, cari ascoltatori, ci facciamo trascinare dai ricordi. Siamo tornati giovani per un attimo. Esatto, siamo tornati giovani per un attimo. Allora, oggi cosa succede? Vabbè, oggi è l'anniversario, mi dispiace per te, della nascita dell'Inter, dell'Internazionale. Benissimo, 44 soci del Milan fondano l'Internazionale. Sai perché? Perché non erano d'accordo col Milan, certo. Ma per utilizzo degli stranieri. Pensa un po', certo. Fin dall'inizio c'è questa storia di mezzo. Il che fa capire che noi del Milan siamo nati prima, e questo la storia non la può modificare. No, questo nessuno. È un dato incontestabile, per così dire. Quindi nel 1937 poi gli scissionisti hanno fatto scissionisti, però il nome dell'italianità, capito? Sì. Questo è il punto, erano nazionalisti. E nel 1937 obbligo di tessera del Partito Nazionale Fascista per ogni incarico pubblico. Oggi compiono gli anni, oltre a Ornella Muti, di cui ti so devoto fan, insieme a Meazza, anche Emma Bonino e un Matteo. No. Matteo. Sì, Matteo Salvini. Matteo Salvini, appunto. Esatto. Emma Bonino e Matteo Salvini. Bene. Esatto. Cari amici, allora intanto ci devi dare il tuo parere, caro Oscar. Diamo il numero di telefono 800240024 perché ci siamo inventati la flat tax, quella che Matteo Salvini peraltro dice vorrebbe per tutti, ma per i ricconi, i paperon dei paperoni, allora, che se, se pagano 100.000 euro, ci accontentiamo di 100.000 euro per 15 anni, però ogni anno ovviamente, quelli che hanno proprio grandi patrimoni, venghino signore, venghino in Italia. Noi li accogliamo volentieri, si portano qua i patrimoni, magari spendono qui, se si portano anche le attività in Italia ci fanno anche un favore. No, no, no, allora, scusami, io oggi sono un po' deluso dai miei colleghi, naturalmente adesso faccio la parte di chi vuol fare il primo della classe, però bisogna dare un buon servizio ai nostri ascoltatori e ai nostri lettori di giornali. Complessivamente partiamo da questo, informazione bocciata oggi su quasi tutta la linea, perché... Primo, non è una flat tax, qui tutti quanti usano il termine senza sapere cosa vuol dire. La flat tax è un'aliquota proporzionale, non progressiva, ma proporzionale sul reddito. Questa non è, non ha aliquota, non è un'aliquota. È secca. Ecco, e non considera l'imponibile reddito, quindi è una somma forfettaria, un'imposta capitale straordinaria. Uno, non è la flat tax, non c'entra niente con chi propone la flat tax. Uno, due, non è tantomeno un condono come scrivono alcuni, no, beh, visto che sono imponibili, è una proposta realizzata. Ecco, è una somma, si chiama lump sum, ma comunque insomma, è un'imposta capitaria fissa a prescindere dal reddito. Allora, uno può dire, adesso Giannino che vuole le tasse più basse è favorevole. No, però Giannino non dimentica che viviamo in un certo ordinamento. In questo ordinamento particolare che è l'Italia, questa proposta del governo, secondo me, rischia di sbattere il naso contro il muro. Primo. Perché la Corte Costituzionale, se qualcuno la impugna, dovrebbe pensare che non viola l'articolo 3, cioè l'uguaglianza tra cittadini, e l'articolo 53, la progressività del sistema? Il MEF, a chi telefonava ieri facendo il nostro mestiere, diceva: ma che c'entra? Siamo già pieni di imposte proporzionali. Per esempio, a seconda dell'affitto sulla tua casa, puoi avere una cedolare secca invece che portartela in dichiarazione dei redditi con l'aliquota marginale, o per esempio se hai titolo di Stato c'hai una cedolare secca al 12,5% invece di portartela al 26% di aliquota sugli altri titoli. E no, la mia obiezione, no caro MEF, perché quelle sono appunto aliquote cedolari secche, cioè sono proporzionali su un reddito non imponibile, qui non c'è né l'aliquota né un imponibile, quindi secondo me primo di fronte alla Corte Costituzionale rischia di cadere, perché se hai una casa tu all'estero non si capisce perché tu paghi l'aliquota progressiva marginale e se viene uno da fuori invece no, perché paga una somma fissa. Due, oltre a questo, guarda che la fanno facile i giornali cadendo nella pubblicità del governo. Adesso arrivano tutti i ricconi, i paperoni, gli arabi, perché Londra sta tagliando la cosa, sì, dice sì, vengono tutti qua. No, perché nel frattempo nel paese da cui provengono, in cui continuano a generare il reddito, noi siamo legati a quei paesi da dei trattati che si chiamano contro la doppia imposizione e nessuno di loro saprà se a quel paese va bene questa cosa, perché nel più dei paesi si considererà questa trovata italiana come una cosa che viola i trattati, qualcuno la impugnerà e vedrai che nell'incertezza molti ricconi su questo, il commercialista del ricone dice finché non abbiamo chiaro non se il paese non ti chiede comunque di pagare le grandi tasse, attenzione, dopodiché se trasferiscono qualcosa in Italia, qui in Italia, su quello che producono in Italia, pagano l'aliquota proporzionale e marginale. Allora, vista così, come vedi, è molto meno affascinante di un comunicato annunciato dai giornali. Non ci cascano, però i giornali ci cascano, io faccio come al solito il rompiscatole. Incredibile a dirsi, se facciamo la flat tax per tutti, allora sì. Ma se facciamo questa cosa solo per i ricconi, è anticostituzionale e secondo me non molti aderiranno. Vedremo, intanto diteci la vostra. Noi vogliamo parlare anche un po' di immigrazione perché nel frattempo il Consiglio d'Europa, in un rapporto che ha sede a Strasburgo, con un rapporto firmato da il rappresentante speciale per le migrazioni e i rifugiati, Thomas Bocek, ci ha bacchettato un po'. Ha detto che siamo un po' lenti nei rimpatri, siamo un po' critici nel gestire, nell'accogliere, eccetera. Come gli ha risposto Gentiloni? Gli ha risposto facendo riferimento a una figura così anche amata dai bambini. Insomma, ha detto non si può risolvere, manco Mago Merlino risolverebbe la situazione. Ma sappiamo che su questa strada, per quanto impervia e arrischiata, possiamo ottenere gli unici risultati che oggi ci consentano non di cancellare il tema dell'immigrazione, perché non lo cancella neanche il mago Merlino. Neanche il mago Merlino. Allora salutiamo Domenico Manzione, sottosegretario all'interno, buongiorno, si occupa di questi temi, ben ritrovato Manzione. Buongiorno, buongiorno a voi. Che rispondiamo intanto a questo Consiglio d'Europa? Facciamo il muro contro muro, respingiamo le critiche al mittente, oppure alcune di queste critiche hanno anche ragion d'essere? No, no, assolutamente, muro contro muro direi che non ce n'è bisogno. Devo dire che la prima riflessione che mi viene, in realtà sono due le riflessioni, cioè mai una mano d'aiuto, cioè ci sono molti organismi internazionali che fanno rapporti per verificare la bontà delle policy, però quando poi si tratta di venire in soccorso degli stati cosiddetti di primo ingresso c'è molto meno disponibilità, diciamo, di quanto non ce ne sia a mettere in evidenza le eventuali defaillance nel sistema. La seconda, che trovo abbastanza sorprendente, è che venga, come lei giustamente sottolineava, dal Consiglio d'Europa, quindi non dalla UE, attenzione, sì, certo, ma da un organismo che dovrebbe essere più attento ai diritti, al rispetto dei diritti, e stranamente invece mette in maniera significativa l'accento sulle espulsioni, tant'è che tutta la stampa e tutti i resoconti anche su internet quello che evidenziano principalmente è la defiance, diciamo così, sotto il profilo dei rimpatri, che fungerebbe quasi da fattore di incremento rispetto agli avvii dei cosiddetti La stessa Unione Europea effettivamente, si leggeva nei giorni scorsi, ha detto sui 2 milioni arrivati in tutta l'Unione Europea, guardate che 1 milione non hanno diritto e devono essere rimpatriati. Qual è il problema? È esattamente così. Dall'Unione Europea però, essendo inserito il problema delle espulsioni forzate, perché di queste stiamo parlando, in un quadro più generale di ridistribuzione di aiuti, di guardie di frontiera europea, ha un senso. Da parte dell'Unione Europea, da parte invece del Consiglio, mi sembra molto, molto meno significativo. E tanto più che riguarda anche i minori, che come tutti sanno è materia abbastanza delicata e dovrebbe esserla ancora di più per il Consiglio d'Europa, ovviamente. Però detto questo, il rapporto, che io spero di poter leggere nella sua integralità, perché ripeto, per ora gli unici dati che sono emersi sono questi, il rapporto ovviamente non tiene conto di tutto quello che abbiamo fatto tra quando ci siamo visti con il rapporteur circa un anno fa, sì, e quello che è intervenuto nel frattempo. Il fatto che ci siano poche espulsioni forzate da parte di tutti gli stati europei, non solo dell'Italia per la verità, è dato oggettivo, tant'è che appunto, come lei sottolineava giustamente prima, l'Europa ha dichiarato che ci sono 1 milione di persone irregolari che dovrebbero essere riavviate. Che facciamo? Perché guardi, in Ungheria li mettono in carcere. L'Unione Europea ha detto non escludete questa opzione, cari stati, cioè nell'attesa di rimandarle al proprio paese, anche fare una forma di detenzione. Le pare possibile? No, mi farebbe piacere che i rapporti si incaricassero, diciamo così, di verificare la bontà di quelle policy, giusto appunto. Sul fatto invece che ci sia la necessità di effettuare più rimpatri delle persone che non hanno alcun titolo di rimanere sul nostro territorio, beh, questa è una cosa di cui noi abbiamo già preso atto, in realtà, tant'è che, come lei sa, in questo momento la Camera sta cercando, al Senato per la verità si trova in questo momento, di convertire in legge un decreto legge che giusto appunto dovrebbe accorciare i tempi di valutazione da parte delle nostre commissioni, dei nostri tribunali per il riconoscimento del diritto d'asilo, e introduce, o meglio introduce ex novo, delle forme di trattenimento che sono funzionali all'espulsione. Vedremo come si può fare, Oscar. Certo, c'è da dire che le bacchettate arrivano. No, ci colpisce perché Manzione dice mai una mano dall'Europa, no? Questa è un po' la polemica politica che c'è effettivamente da un po' di mesi. Che cosa vorreste dall'Europa, Manzione? Ma guardi, tanto per incominciare, proprio su questo argomento, sono circa 2 anni che noi cerchiamo di avere con l'Europa un atteggiamento costruttivo che renda i rimpatri, anche quelli di carattere forzoso. Io non le nascondo, Milan, che preferisco i rimpatri volontari assistiti perché sono molto più efficaci e soprattutto non fanno correre il rischio di innestare una sorta di cortocircuito per cui uno torna a casa, poi lo ritroviamo un'altra volta sulle coste libiche dopo sei mesi che cerca di rimbarcarsi un'altra volta verso l'Europa. Però se si devono fare, anche i rimpatri forzosi si possono fare, ma presuppongono accordi e spendite, quindi risorse nei confronti degli stati che devono ricevere queste persone, e sarebbe molto più utile che fossero europei. Devo dire che qualcosa si sta muovendo, come voi sapete, con la direttiva che prevede la cosiddetta Guardia Costiera Europea, che dovrebbe essere incaricata anche di rimpatri europei, ma la strada è sicuramente quella, perché il peso politico e economico che può mettere l'Europa sul piatto della bilancia è sicuramente superiore a quello che possono mettere i singoli stati. Certo, una questione però, oggi per esempio c'è un colloquio con il ministro Minniti sul Corriere della Sera, e qui Carosca, secondo me la linea di Minniti è chiara, cioè dire attenzione, tutto quello che abbiamo costruito in questi decenni di anche ricchezza dell'Europa dà l'idea a chi ci vede da fuori che questa ricchezza sia per tutti, sia accessibile, sia attenzione, perché poi se tutti vengono qui e se non difendiamo questa ricchezza poi la perdiamo noi e tutti. E invece di dare ricchezza a tutti, come dire, dobbiamo difenderla, dobbiamo proteggerla, anche controllandone i confini nazionali. Anche controllandone i confini nazionali, sì. Noi invece ne abbiamo fatto, vedo, io non voglio polemizzare, ma insomma, mi sembra un tono, anche l'Italia che è diventato un motivo di polemica intraeuropea. E questo ed è il segno di una politica che ha perso le priorità. Non do giudizi personali su nessuno, però è questo. Quando la questione si diventa il battibecco, non ci dai soldi, non capisci tu, ma non fate voi, vuol dire che è un continente che ha perso il suo fondamento. Di fatto è così, perché capisci, da una parte è vero quello che dice Minniti, ed è Minniti un'anima diversa del PD e della sinistra rispetto a chi ha cantato sempre solo un'altra canzone. Dall'altra però il nostro bilancio demografico non si regge senza immigrati, e il problema è che noi siamo incapaci, come invece fanno altri paesi occidentali, come ha fatto anche la Germania, ma come fanno in particolare Australia, Nuova Zelanda, eccetera, di tra virgolette attirare e scegliere quelli che tra virgolette servono meglio alle vocazioni della nostra economia. Cioè siamo incapaci sia di assecondare quello che la nostra economia continuerà a servire per molti anni in termini di più immigrati, sia di difendere i confini, e ne facciamo polemica e chiacchiere. Io credo che la polemica intraeuropea abbia indebolito noi, tutti i partner europei, quindi queste cose si decideranno a seconda di chi vince in Francia ad aprile, perché se vincerà Le Pen è ovvio che molte cose cambieranno, e poi a seconda di quello che succede anche a casa nostra in Germania. Peccato però, perché senza chiarezza su queste questioni quello che viene meno è il terreno comune tra noi, prima ancora che vincerà la battaglia che dice Minniti. Io la penso così, so che sono minoritario, perché ciascuno pensa di avere ragione urlando di più. La gara a urlare di più una cosa ha prodotto, che abbiamo visto nel 2015-2016 i muri e le forze militari ai confini intraeuropei, non extraeuropei, capito? Mica solo in Ungheria, quindi no, certo. Questo è diventata la realtà di questa Europa in cui tutti si accusano l'uno con l'altro. Volevo rinforare Giannino, perché non è poi così minoritario come pensiero quello che lui ha espresso. Ci sono vari segnali che vanno in quella direzione, l'unico, ma a cominciare dalle stesse pronunce delle corti europee che cominciano a stabilire quale dei sistemi di accoglienza, ricorderete qualche sentenza in cui dalla Svizzera dovevano tornare in Italia o non possono andare in Grecia perché non c'è un sistema di accoglienza adeguato, e così via discorrendo. Cioè il nervo scoperto dell'immigrazione, che produce effetti politici, economici e sociali anche certo, significativi, anziché far convogliare tutte le forze verso un unico obiettivo, produce una sorta di rissa familiare all'interno della quale evidentemente si perde il filo comune. Esatto. È veramente paradossale come conseguenza. Io l'unico correttivo che metterei rispetto al ragionamento di Giannino, per il resto ripeto, lo condivido pienamente, quindi siamo in una minoranza, non così minoranza probabilmente, è che l'idea di selezionare, l'idea delle vie legali che ha espresso ieri Gentiloni è secondo me la vera chiave di volta di tutto il sistema, perché le vie legali significa in qualche maniera incrementare il controllo sulle vie illegali, e nessuno Stato potrebbe permettersi il lusso di avere una via legale e una via illegale contemporaneamente di flussi nel proprio paese. Tuttavia il ragionamento sulla scelta e sulla selezione delle persone è un ragionamento un pochino più delicato, perché andrebbe fatto d'intesa coi paesi di origine, questo, quindi è un discorso ancora più complicato, perché altrimenti corriamo il rischio sì di arricchirci noi, ma di impoverire paradossalmente i paesi da cui nascono i flussi, e questo potrebbe provocare danni ulteriori sostanzialmente. Noi, nel ringraziare il sottosegretario all'interno Domenico Manzione, per completezza c'è da dire che Minniti, che appunto ha questa idea della difesa dell'Europa e di tutto quello che abbiamo costruito in questi anni e decenni, cioè, interesse dopo guerra, dice anche che per esempio la politica del governo ungherese è deleteria perché contrasta con i principi, cioè quello di metterli in carcere, in carcere nei carcere, container, magari nei container, no, ma guardate, il paradosso è che lo stesso giorno in cui si approvava una legge che consente di mettere nei container non chi ha commesso un reato ma chi ha fatto una domanda d'asilo, che è veramente paradossale, perché noi poi sulle carte internazionali affermiamo invece che ne hanno diritto, la Corte Europea, facendo un ragionamento del tutto formale, ha stabilito che una famiglia di siriani non può avere un visto di breve durata ai fini della proposizione della domanda di asilo per poter ottenere accoglienza in Belgio. Questo significa che si devono rivolgere ai barconi e ai trafficanti di uomini. In ogni caso, grazie a Domenico Manzione. Noi andiamo un attimo in pubblicità, ci sono tante telefonate, immagino anche sulla questione della tassa finanziaria. No, sul Bars. Sul Bars. Sto scherzo. Sai che dopo il nostro inizio qualcuno ci ha scritto fatevi vedere da uno buono. Lo so, vabbè, perché la gente appena sai, mi ha sempre colpito quello che mi ha detto Paolo Ruffini, sai, il regista, quello un po', perché che ha anche un'anima molto seria, ha detto io sono felice, no? E la felicità fa incazzare le persone. Quando uno è felice e dice io sono felice, la gente ti guarda strana, e quindi se uno sente un po' di allegria, subito pensa che ci sia. Io per questo ho voluto ricordare che la prima risposta di Don Bosco nei tre principi A, la via per diventare santo è allegria, capito? Mike Buongiorno non si è inventato niente, come vedi. San Domenico Savio. Vabbè, non mi far attaccare. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, sono le 8:45 minuti. Eccoci qua. Ci chiama Roberto da Torino, buongiorno, come tanti ascoltatori. Buongiorno a voi. Eccoci, Roberto. Volevo scusarmi anzitutto se abbasso il livello intellettuale della trasmissione, ma dopo l'entrée di Giannino e di Milan sul Barcellona mi permetto di condividere con voi il mio dramma mattutino. Ascolto Radio 24, ascolto le letture dei giornali, ascolto la vostra trasmissione, mi piace... trasmissione importante, però condotta da un milanista e da un granata. Ora vi chiedo, guardi che il dramma è nostro, il dramma sportivo è nostro. Io di che squadra sono? Provate a indovinare. Sarà Juventino, dai, sì. Si vede la gobba da qua. sono gobbo da sempre, però siete due grandi. Caro Roberto, il vero dramma è il nostro. A proposito, se domani sera non ce ne fate più di tre, ci fate una cortesia. Assolutamente, sono d'accordo con voi, speriamo che il Barça vinca la Coppa dei Campioni, benissimo, sono d'accordo con voi. No, va bene, speriamo davvero, fatecene tre, non di più, 3-0 domani lo accetto, di più comincerebbe a sentirmi umiliato. È stato simpatico il nostro ascoltatore juventino, dotato di ironia e... No, noi non abbiamo detto che tifiamo perché vinca. Il nostro non era un auspicio, no, era la squadra proprio più bella del mondo. No, era proprio un pronostico, cioè nel senso che lo vincerà. Poi, insomma, ricordo sempre a Roberto che ci sono delle cliniche in Austria per gli juventini, che vai 15 giorni, torni, sei come prima. No, lo sai che molti ci hanno scritto gli sms invece dicendo che siamo noi che abbiamo bisogno di un medico, ma bravo. Quindi, questo è vabbè, ma un po' di ironia, un po' di allegria anche su questo, sul tifo. Tanto anche perché poi, se andate a vedere, anche se i giornali ottengono piccoli, le due banche venete che già vi hanno inflitto, cari ascoltatori veneti, 11 miliardi di tosatura, e voi muti e zitti, ci avete rimesso 11 miliardi fino a questo momento. Parlamento e possono andare in risoluzione, in bail-in. Forse i giornali, cari colleghi, lo mettiamo un po' in prima pagina questo invece che affogato le pagine tecniche? O credete, cari autorevoli colleghi, che se dopo anni ancora non abbiamo capito e le mandiamo in risoluzione, malgrado i soldi di Atlante, malgrado le promesse pubbliche, è un anno che scrivete il contrario, invece c'è il rischio che vadano in risoluzione. Forse li vogliamo avvisare ancora gli amici veneti, no? Mi dispiace essere ironico, però io a volte dico proprio sbagliato mestiere, devo andare a suonare le campane. Perché non... A suonare le campane? Sì, a suonare le campane, sai quelle che un tempo servono per l'allarme, adesso ormai, non servono più a niente. No, non c'è bene, c'è anche ma io infatti mi sento esattamente in quella condizione lì, perché anche la campana, è un'inversione dell'ordine delle priorità. Quando tutti tengono muta una cosa in Italia, vuol dire che è una cosa importante su cui molti si hanno le mani dentro. Questa è la logica del giornalismo che ho capito io. Guarda. Allora, c'è Salvatore, ci chiama da Napoli. Buongiorno Salvatore. Buongiorno. Io volevo intervenire sulla questione degli emigranti, su questa questione di questi rifugiati, eccetera. Sì. Allora, mi volevo riagganciare un poco anche a quello che si è sentito ieri dalla televisione, il nostro premier attuale Gentiloni, il quale ha detto che non abbiamo bisogno di lezioni da parte di nessuno, che ce la vediamo noi sappiamo come fare, e non è così, perché purtroppo ci ritroviamo migliaia di gente qui da noi che non riusciamo a gestire, ovviamente. E quindi il discorso va fatto in altri termini, va detto alla comunità europea: signori cari, ma voi la dovete smettere di parlarci addosso. È bello a parlare nella vita, ma dateci voi una soluzione. Il Tusk, che il premier polacco, sono questi paesi emergenti, sono tutti quanti sono tutti bravi a parlare, sì. Ma che ci dessero soluzioni concrete, le soluzioni sì dall'Europa, però uno Stato che da 25 anni parla di emergenza, guarda, l'abbiamo detto tante volte, dovrebbe anche avere delle soluzioni all'interno, almeno sull'accoglienza. È diventato un rimpallo per farvi credere che la colpa sia dell'Europa, ma noi colpe ne abbiamo di quello che succede a casa nostra o no, o mai. Ma infatti io questo voglio dire, ieri il nostro premier Gentiloni ha sbagliato a porre la questione dicendo che non abbiamo bisogno di consigli. Noi è venuto il momento, vabbè, è inutile piangere su quello che è successo perché fa parte di governi passati. Noi in Italia c'è il brutto vizio di scaricare la palla sempre detto questo, l'Europa sicuramente, per esempio, tutta questa cosa dei ricollocamenti dei migranti, dove sono tutti questi paesi che dovrebbero accogliere? Sì, ma bisogna dare delle soluzioni che siano concrete e fattive. No, ma questo è chiaro, però quello Salvatore si voleva dire che insomma l'Europa le responsabilità le ha anche, però è questo gioco al rimpiattino che poi non porta a nulla. Però Salvatore, grazie, così diamo spazio anche agli altri, a cominciare da Antonello da Piacenza. Buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire sulla flat tax. Sì. Io che non è una flat tax, però ci siamo capiti, insomma, dai. La tira Paperoni, chiamiamola così. Diciamo che secondo le statistiche italiane io sono uno dei 5% più ricchi d'Italia, perché faccio l'amministratore delegato di una filiale italiana di un gruppo internazionale. Premetto, sono partito dal quinto livello metalmeccanico, in 30 anni di lavoro. Bravo. Sono arrivato amministratore delegato, pago tutte le mie tasse, secondo l'ISE sono nella fascia alta di contribuzione, quindi tranne le operazioni pago tutto l'aspetto medico, certo. Non sono un dirigente, sono consulente, quindi pago tutto di tasca mia, e mi sono divertito a fare un calcolo molto veloce. Per cui del mio reddito, che ripeto dovrebbe essere secondo le statistiche nel 5% più alto d'Italia, io mi viene tassato l'82%, 43% di IRPEF, poi ci sono le tasse locali, poi ci sono le tasse sulla seconda casa, più c'è l'IVA che paghi sui consumi, più le accise. Sta sommando il totale delle imposte, no? Tra dirette e indirette, locali, sono arrivato all'80%. Patrimoniali e reddito, arriva all'80%. È tutto, avviene così. Ecco. Quindi, come si sente di fronte al fatto che adesso ai neopaperoni gli diciamo 100.000 senza vedere i tuoi redditi, a quanto ammontano, eccetera, eccetera? Ci sono due aspetti. L'aspetto personale, che ovviamente mi sento stupido perché io parlo 6 lingue, ho viaggiato in tutto il mondo, ho lavorato in tutta Europa, anche adesso sto lavorando per il gruppo anche in Europa. Cioè, perché a me mi chiedono tanto e poi... È una cosa che mi sento stupido. Esatto. Dal punto di vista politico, secondo me la cosa è totalmente impresentabile. Oltre che il costituzionale, dovremmo vedere il testo, io non conosco esattamente il testo. Vabbè, e questa è un'altra questione. Però mi sembra politicamente impresentabile. Concordo con lei, perché capisco auri sacra fames, come si dice in latino, cioè che lo Stato è assetato, è affamato. Oltretutto Renzi a ieri ha detto: io sto con Gentiloni, ma niente no entrate. Ti credo, dovete dire che dovete tagliare le spese. Ma quando lo capite che tagliate le spese? Nannicini, io non so se l'hai visto Alessandro, la stampa dice basta bulimia di riformismo, conti pubblici, entrate, uscite. Ripartiamo da Gramsci. Che cosa? Da Gramsci ripartite. Ma dai, su. Dai, Giovanni c'è da Milano, con lui concludiamo. L'ultimo ascoltatore, ciao Giovanni, buongiorno. Ciao, buongiorno. Vorremmo intervenire anche sul discorso degli emigrati. Io vorrei capire una cosa. Dalle statistiche, il continente che crescerà più di tutti nei prossimi anni sarà l'Africa. Sì. Raddoppierà la popolazione. Sì. Cioè, qui da noi ancora non questi concetti sono ormai non fuori luogo, cioè non ne parla nessuno. Il 70% della popolazione carceraria è tutta emigrata. Ma questo al di là della considerazione statistica, questo la porta a dire che cosa? Che saremo presente un'invasione se non si mettono delle barriere. Cioè, se il continente che raddoppierà la popolazione nei prossimi anni, che crescerà di tutto nel mondo, sarà l'Africa. Bisogna trovare una soluzione. Ma infatti questa è la tendenza che già è in atto. Però vede che qua poi dice, che troviamo la soluzione, le barriere in acqua, no, cioè, dopodiché l'Italia, io chiudo con questo, anche dopo aver detto chiudiamo le barriere eccetera, ha sbagliato posizione persino sulla Libia e non contiamo niente nella Libia tra Haftar e Sarraj. Quindi mi dispiace, non ce la facciamo, è più forte di noi forse. Senti, con cosa stiamo chiudendo? La musichetta del grande... del Barcellona. No, questo non è l'inno del Barcellona. Sì, certo, l'inno del Barcellona quando vincerà quello che si sente, quello al quale i napoletani sono prodotti in quell'urlo fantastico dello stadio. Lo so, però a loro non è andata benissimo. Ma rendiamo omaggio ai tifosi, ai napoletani, agli juventini, a tutti i tifosi. E quando il calcio delude è perché non ha la loro altezza, questa è la mia idea. Viva Barça! Ci sentiamo. Via San Domenico Savio, dai, dammi retta, vatti a confessare. Ciao a tutti.